Di Catherine Mansfield, Je ne parle pas français, non parlo francese. Edizione 247 scaricato da internet, traduzione di MGG. Non so perché questo piccolo caffè mi piace tanto. È sporco, è tristissimo. E non ha neanche qualcosa che lo distingua da 100 altri, niente. Né si può dire che qui arrivino ogni giorno gli stessi strani tipi e che ci si possa mettere a osservarli dal proprio angolo, riconoscendoli. E più o meno, con un forte accento sul meno, imparare a capirli. No, vi prego, non pensate che quelle parentesi siano una confessione della mia umiltà davanti al mistero dell'anima umana. Niente affatto. Non credo nell'anima umana, non ci ho mai creduto. Credo che gli esseri umani siano come tante valigie, piene di certe cose, spedite, gettate via, buttate a terra, perse e ritrovate, all'improvviso mezze vuote. Ostipate fino all'inverosimile perché l'ultimo facchino le sbatte tremolanti sull'ultimo treno e filano via sferragliando. Ciò non toglie che le suddette valigie possano essere molto fascinose, oh, fascinosissime. Eccomi davanti a loro come un doganiere. Ha qualcosa da dichiarare? Vini, liquori, sigari, profumi, roba di seta? Ho un momento di esitazione per il fatto che probabilmente mi stanno ingannando. Poco prima che io scriva col gesso quello scarabocchio, e un altro momento di esitazione ce l'ho subito dopo per il fatto che quasi sicuramente mi hanno ingannata. Ecco, sono questi i due attimi più eccitanti della vita, almeno parlo per me. Ma prima di iniziare questa digressione lunga e un po' inverosimile e non particolarmente originale, volevo dire semplicemente che qui non ci sono valigie da esaminare perché la clientela di questo caffè, signore e signori che siano, non si siede. No, resta al bancone ed è composta da un gruppetto di operai che vengono su dal fiume, tutti infarinati di polvere bianca, calce o qualcosa del genere, e da alcuni soldati che fanno coppia con certe ragazze snelle, brune, con cerchi d'argento alle orecchie e borse della spesa infilate al braccio. Anche Madame è magra e bruna, bianco il viso e bianche le mani. Con certe luci sembra addirittura trasparente e l'effetto della sua figura bianca ritagliata nel suo scialle nero è straordinario. Quando non serve i clienti, siede su uno sgabello con il viso rivolto sempre verso la finestra, i suoi occhi cerchiati di scuro. Fissano e seguono le persone che passano, ma non come se stesse cercando qualcuno. Forse 15 anni fa, sì, ma ora quell'atteggiamento è diventato un'abitudine. Dal suo aspetto sfinito, disperato, si direbbe che da almeno 10 anni ci ha rinunciato. E poi c'è il cameriere, non patetico, decisamente non comico, non fa mai uno di quei commenti assolutamente insignificanti. E stupiscono tanto in bocca a un cameriere, come se quel povero disgraziato fosse una sorta di incrocio tra una caffettiera e una bottiglia di vino e non potesse contenere nemmeno una goccia di qualcos'altro. È brizzolato, secco secco, ha i piedi piatti, unghie lunghe e fragili che ti irritano mentre raccogli i 2 soldi che gli lasciano. Quando non sfrega il tavolo, non spazza via con un solo colpo di strofinaccio una o due mosche morte. Se ne sta in piedi, la mano sullo schienale di una sedia, nel suo grembiulone troppo lungo e sull'altro braccio il triangolo dello strofinaccio sporco, in attesa di essere fotografato in relazione a qualche miserabile omicidio. Interno del caffè dove è stato trovato il corpo. Si è visto centinaia di volte. Non vi siete accorte che ogni luogo ha la sua particolare ora del giorno in cui diventa veramente vivo? Non è esattamente questo che volevo dire, piuttosto sembra che esista davvero un momento in cui ci si rende conto, per puro caso, di essere apparsi sulla scena esattamente nel momento in cui si era attesi. Tutto è organizzato e allora eccoci. Ah sì, padroni della situazione. Aspiriamo a pieni polmoni sentendoci importanti e nello stesso tempo sorridiamo di nascosto. Furbescamente, perché la vita non sembra tanto propensa a concederci questi ingressi, anzi sembra impegnata a toglierceli, a renderceli impossibili, tenendoci dietro le quinte finché non è troppo tardi. Eh sì, in quell'occasione gliel'hai fatta la vecchia strega. La prima volta che sono entrato qui ho assaporato uno di quei momenti. Ecco, credo, perché continua a tornare. Rivisitare la scena del mio trionfo o la scena del delitto, dove per una volta ho messo due dita attorno alla gola della vecchia megera e ho fatto di lei quello che mi pareva. Domanda: perché sono così amareggiato nei confronti della vita? E anche perché la vedo come una straccivendola da cinema americano che si trascina avvolta in uno scialle sudicio con i suoi vecchi artigli aggrappati a un bastone. Risposta: ecco il risultato che il cinema americano produce su una mente debole. Comunque il breve pomeriggio d'inverno stava volgendo al termine, come si dice, e io vagavo per le strade, non so se diretto o meno a casa, quando mi ritrovai qui dentro, diretto verso questo sedile nell'angolo. Appesi il soprabito inglese e il cappello di feltro grigio allo stesso gancio dietro di me, e dopo aver concesso al cameriere il tempo di essere immortalato nelle pellicole di almeno 20 fotografi diversi, ordinai un caffè. Mi versò un bicchiere del ben noto intruglio viola rosso, soffuso di fluttuanti riflessi verdastri. E se ne andò strascicando i piedi, mentre io mi sedevo tenendo stretto il bicchiere fra le mani perché fuori faceva un freddo cane. Tutto a un tratto mi resi conto che, senza volerlo affatto, stavo ridendo. Sollevai lentamente la testa e mi vidi riflesso nello specchio di fronte. Sì, eccomi seduto, appoggiato al tavolino, con quel mio astuto, furbesco sorriso sulle labbra. Davanti a me il bicchiere di caffè con il suo vago pennacchio di vapore e accanto il cerchio bianco del piattino con due pezzi di zucchero. Spalancai gli occhi. Là ero rimasto per tutta l'eternità, avrei detto, e ora finalmente stavo tornando alla vita. Nel caffè c'era una gran quiete. Fuori, attraverso la luce del crepuscolo, si poteva vedere. Stava cominciando a nevicare. Si scorgevano appena le forme dei cavalli, dei carri e delle persone che silenziose e bianche si muovevano in un ambiente pieno di piume. Il cameriere scomparve per riapparire subito dopo con una bracciata di paglia. La sparpagliò sul pavimento, dalla porta al bancone e intorno alla stufa, con gesti umili, quasi adoranti. Non ci si sarebbe stupiti se la porta si fosse aperta e la Vergine Maria fosse entrata cavalcando un asino, con le mani misericordiose incrociate sull'ampio ventre. Niente male, no, questo mio pezzo sulla Vergine. Mi è venuto fuori dalla pena con tanta grazia e fa tanto congedo finale. Mi è venuto in mente in quel momento e ho deciso di prenderne nota. Non si sa mai, un finalino del genere può sempre tornare utile per smussare le angolosità di un paragrafo. Quindi, facendo attenzione a muovermi il meno possibile perché l'incantesimo non si rompesse, sapete che intendo, no? Raggiunsi il tavolo accanto per prendere l'occorrente per scrivere. Niente carta o buste, ovviamente, solo un pezzetto di carta rosa per asciugare, quanto mai morbida e floscia e quasi umida, come la lingua di un gattino morto, che però non ho mai toccato in vita mia. Mi sono rimesso a sedere, ma sempre sotto sotto, in uno stato di attesa, facendomi rotolare la lingua del gattino morto intorno al dito e rimuginando nella mente quella frase delicata, mentre con gli occhi acchiappavo nomi di ragazze, battute sporche, disegni di bottiglie, di tazze che non volevano rimanere ferme nel piattino, dei quali era cosparsa la carta. Sempre la stessa roba, si sa. Le ragazze hanno sempre gli stessi nomi, le tazze non stanno mai nei piattini, tutti i cuori sono trafitti e variamente legati con nastri. Fu allora però che all'improvviso, in fondo alla pagina scritta con inchiostro verde, mi imbatté in quella frasetta stupida e insignificante: Je ne parle pas français, non parlo francese. Ecco, era arrivato il momento, il geste, e anche se mi sentivo prontissimo, mi colse di sorpresa. Mi gettò a terra, ne fui addirittura sopraffatto e anche la sensazione fisica era così curiosa, così particolare. Mi sembrava che tutto di me, tranne la testa e le braccia, tutto quello che era sotto la tavola si fosse semplicemente dissolto, sciolto, trasformato in acqua. Rimaneva solo la mia testa e i due bastoni delle braccia che premevano sul tavolo. Eppure, oh, l'angoscia di quel momento, come posso descriverla? Non pensavo a niente, non gridai nemmeno per chiedere aiuto a me stesso. Per un momento smisi di esistere. Ero agonia, agonia, agonia. Poi è passato. E un attimo dopo stavo pensando, ma Dio mio, sono capace di sentire con tanta intensità. Ero assolutamente inconsapevole, però non avevo frasi con cui affrontare la situazione. Sono stato travolto, sradicato e non ho neanche lontanamente provato a difendermi. E così continuavo a gonfiarmi, gonfiarmi, gonfiarmi finché alla fine sbottai. Dopotutto devo essere un uomo di prim'ordine. Nessun uomo di second'ordine avrebbe potuto sperimentare una tale intensità di emozioni con così tanta purezza. Il cameriere ha avvicinato alla stufa rossa un fuscello di legno con il quale ha acceso la lampada a gas sotto il paralume. È inutile guardare fuori dalla finestra, madame, è buio adesso. Le tue mani bianche tremano sopra lo scialle scuro. Sono come due uccelletti tornati al nido per riposare. Sono inquiete, inquiete. Finalmente le infili al riparo sotto le tue piccole ascelle calde. Ora il cameriere ha preso una lunga pertica e con un colpo secco ha riunito le tende. Intervallo, come dicono i bambini. Per di più, non ho pazienza con le persone che non riescono a lasciare andare le cose, che le inseguono piangendo. Quando una cosa è andata, è finita, basta, lasciala perdere, ignorala e consolati. Se hai bisogno di consolarti con l'idea che non ritroverai mai la stessa identica cosa che hai perduta, è sempre diversa. Cambia dal momento stesso in cui ti lascia. Questo è vero, persino per un cappello che rincorriamo. E non sto parlando così superficialmente, cerco di andare in profondità. Mi sono posto come norma di vita di non rimpiangere mai nulla, di non guardare mai indietro. Il rimpianto è uno spaventoso spreco di energie e nessuno che voglia davvero fare lo scrittore può permettersi di indulgere in esso. Non si può dare adesso una forma, non ci si può costruire sopra qualcosa, va bene solo per viverci dentro, crogiolarsi in esso. Guardarsi indietro ovviamente è ugualmente fatale per l'arte, significa mantenersi miseri. L'arte non può e non vuole ammettere la miseria. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Mentre scrivevo quest'ultima pagina, il mio secondo io ha continuato con le sue corse su e giù là fuori, nel buio. Mi ha lasciato proprio quando stavo cominciando ad analizzare il mio grande momento. È scappato via di colpo, come un pazzo, come un cane smarrito che crede finalmente, oh, finalmente, di avvertire il passo familiare. Mouse? Mouse, dove sei? Sei vicino? Sei tu che ti affacci alla finestra alta e allunghi le braccia per afferrare i battenti delle persiane? Sei tu quel soffice fagotto che si muove verso di me attraverso le piume di neve? Sei tu la ragazzina che preme contro le porte girevoli del ristorante? È tu all'ombra scura che si piega in avanti nel taxi? Dove sei? Dove sei? Da che parte devo girarmi? Dove devo correre? E ogni momento che passo qui in piedi, esitando, ti allontani sempre più, Mouse. Oh, Mouse. Ora il povero cane è rientrato nel caffè con la coda tra le gambe piuttosto esausto. È stato un falso allarme. Non è da nessuna parte, non c'è. Sta a cuccia allora. Sta a cuccia, giù. Mi chiamo Raoul Duquette. Ho 26 anni e sono parigino. Un parigino autentico. Quanto alla mia famiglia ha davvero poca importanza. Non ho famiglia, non ne voglio. Non penso mai alla mia infanzia. L'ho dimenticata. In effetti c'è solo un ricordo che emerge. Un ricordo che ora mi sembra pieno di significato per quel che riguarda me stesso dal punto di vista letterario. È questo. Quando avevo circa 10 anni, la nostra lavandaia era un'africana grassa. Grassa, molto scura, con un fazzoletto a quadri sui capelli crespi, manifestava sempre un interesse particolare nei miei confronti quando veniva a casa nostra. E dopo aver svuotato la cesta degli indumenti, mi ci metteva dentro e mi sollevava, facendomi dondolare. Mentre io mi aggrappavo stretto ai manici e gridavo di gioia e di paura, ero piccolo per la mia età e pallido, con una graziosa boccuccia semiaperta, ne sono sicuro. Un giorno, mentre me ne stavo in piedi sulla porta e la guardavo andare via, si girò e mi fece cenno, muovendo la testa e sorridendo in uno strano modo pieno di mistero. Senza la minima esitazione, le andai dietro. Mi portò in un piccolo gabinetto in fondo al corridoio, mi prese tra le braccia e cominciò a baciarmi. Ah, quei baci, specialmente quei baci dietro le orecchie che per poco non mi assordavano. Poi, con un verso leggermente minaccioso, si strappò di dosso il corpetto e mi strinse forte a sé. Quando mi lasciò andare, prese dalla tasca una frittellina rotonda coperta di zucchero e io barcollando rifeci il corridoio fino alla porta di casa nostra. Poiché questa scena si è ripetuta una volta alla settimana, non c'è da meravigliarsi se me la ricordo con così tanta precisione. Inoltre, da quel primo pomeriggio la mia infanzia fu, per dirla con eleganza, cancellata a furia di baci. Diventai molto languido, molto carezzevole e smisuratamente goloso. E così svelto, così acuto, mi sembrava di capire tutti e di poter fare con tutti quello che volevo. Forse ero spesso in uno stato di eccitazione fisica e questo spiega il motivo per cui fossi così desiderato. Perché i parigini sono per la maggior parte. Oh, beh, lasciamo perdere. E lasciamo perdere anche la mia infanzia. Seppelliamola sotto un cesto di bucato invece che sotto una pioggia di rose. E passons outre. Per me la vita è iniziata nel momento in cui ho preso in affitto un piccolo appartamento da scapolo al quinto piano di una casa alta, non troppo squallida, in una strada che poteva essere discreta o non esserlo affatto. Cosa utilissima questa. E lì dunque sono emerso, sono uscito alla luce e ho messo fuori le mie due corna, con sulla schiena come una lumaca uno studio, una camera da letto e una cucina. Nelle stanze, mobili veri. Nella camera da letto un armadio con uno specchio lungo, un grande letto ricoperto da una trapunta gialla imbottita, un comodino da notte con ripiano di marmo e una toeletta disseminata di piccole mele. Nello studio uno scrittoio inglese con cassetti, un seggiolone da tavolo con cuscini in pelle, libri, una poltrona, un tavolino con sopraccigliacarte e lampada e alcuni studi di nudo alle pareti. Usavo la cucina solo per buttarci dentro vecchie carte. Ah, mi rivedo quella prima sera dopo che i facchini se ne sono andati e sono riuscito a sbarazzarmi della mia atroce vecchia concierge. Mi vedo camminare in punta di piedi sistemando qualcosa qua e là, o piantato davanti allo specchio con le mani in tasca, mentre dico a quella luminosa visione: sono un giovane che ha il suo appartamento. Scrivo per due giornali, voglio dedicarmi alla letteratura seria, sto per cominciare una carriera. Il libro che pubblicherò farà saltare i critici sulle sedie. Scriverò di cose mai affrontate finora. Mi farò un nome come indagatore del sottosuolo, ma non come hanno fatto altri prima di me. Oh no, con molta innocenza, con una sorta di tenero umorismo che venga fuori dal di dentro, come se fosse tutto semplicissimo, tutto estremamente naturale. Vedo ben segnata la mia strada. Nessuno ci è mai riuscito come ci riuscirò io, perché nessun altro ha mai vissuto le mie esperienze. Sono ricco, sono ricco. Eppure non avevo più soldi di quanti ne abbia adesso. È straordinario come si possa vivere senza soldi. Ho un mucchio di bei vestiti, biancheria di seta, due abiti da sera, quattro paia di stivaletti di vernice con ghette di pelle chiara, ogni sorta di piccole cose come guanti e scatole da cipria e un set per il manicure, profumi, ottimo sapone e niente è pagato. Se mi ritrovo ad avere immediato bisogno di soldi, beh, ci sono sempre una lavandaia africana e un gabinetto e dopo io sono sempre molto franco e bon enfant nel pretendere che la frittellina sia ben cosparsa di zucchero. A questo punto vorrei annotare un fatto, non per fatua ostentazione, ma piuttosto con un senso di leggera meraviglia. Finora non sono mai stato io a fare le prime avance a una donna. Non perché abbia conosciuto una classe di donne soltanto, assolutamente no, ma dalle piccole prostitute alle mantenute e su alle anziane vedove, alle commesse di negozio, alle mogli di uomini rispettabili e E persino le più esperte studiose di letteratura moderna, che si incontrano alle cene e alle serate più eleganti a cui ho partecipato, ho invariabilmente trovato non solo la stessa prontezza, ma addirittura lo stesso esplicito invito. La cosa mi sorprendeva all'inizio. Guardavo dall'altra parte del tavolo e pensavo, ma è possibile che quella signorina tanto distinta, che discute di Kipling con il signore con la barba castana, mi stia davvero facendo piedino? E non ero mai veramente sicuro finché anche io non lo facevo a lei. Curioso, no? Non ho l'aspetto di un principe azzurro, sono piccolo e snello, ho la pelle olivastra, occhi neri con ciglia lunghe, capelli neri e setosi tagliati corti, piccoli denti quadrati che si vedono quando sorrido. Mani piccole e agili. Una volta una donna in una panetteria mi ha detto: "Lei ha proprio le mani che servono per fare dei bei pasticcini." Confesso che svestito sono abbastanza piacente, pienotto, quasi come una ragazza. Ho le spalle lisce, porto una sottile catena d'oro sopra il gomito sinistro, ma dico, non è strano che abbia scritto tutte queste cose sul mio corpo e così via? È il risultato della mia vita dissoluta, sommersa. Sono come una donnina da caffè concerto che si presenti con una manciata di fotografie. Questa sono io, con addosso solo la camicia, che esco da un guscio d'uovo. Qui ancora io a testa in giù in altalena, con una gran balza dietro che mi fa assomigliare a un cavolfiore. Avete capito? Se pensate che quello che ho scritto sia solamente superficiale, impudente e a buon mercato, vi sbagliate. Ammetto che possa sembrare così, ma assolutamente no. Se così fosse stato, come avrei potuto provare quel che ho provato quando ho letto quella piccola stupida frase scritta con inchiostro verde sulla carta assorbente? Questo dimostra che c'è qualcosa in più dentro di me, che sono davvero qualcuno, no? Qualunque sentimento, soltanto un po' meno terribile di quel momento di angoscia, avrei potuto fingerlo, ma quello no. Era vero. Cameriere, un whisky. Odio il whisky. Ogni volta che me lo metto in bocca, lo stomaco mi si rovescia. E certo, la qualità che tengono qui è particolarmente scadente. L'ho ordinato solo perché mi propongo di scrivere di un inglese. In certe cose noi francesi siamo ancora incredibilmente antiquati e fuori moda. Mi stupisce non avergli chiesto anche un paio di knickerbockers di tweed, una pipa, dei denti lunghi e un paio di baffi rossicci. Grazie, mon vieux. Non avreste per caso un paio di baffi allo zenzero? No, monsieur, risponde tristemente, non vendiamo bevande americane. E dopo aver imbrattato un angolo del tavolo, se ne torna di là a farsi fare un'altra ventina di fotografie alla luce artificiale. Uff, vecchio odore il whisky, che voglia di vomitare. Bello schifo per ubriacarsi, dice Dick Harmon, ritirandosi, rigirandosi il bicchierino tra le dita e sorridendo con il suo sorriso lento e vago. Si ubriaca così, lentamente, con aria sognante, e a un certo momento comincia a cantare piano, molto piano, di un uomo che cammina su e giù per la strada cercando di trovare un posto dove cenare. Ah, come mi piaceva quella canzone e come mi piaceva il suo modo di cantarla, piano piano, con voce cupa e dolce. Sembrava contenere nella sua gravità e nel suo tono sommesso tutti quegli edifici alti e grigi, quelle nebbie, quelle strade interminabili, quelle sagome nette e scure dei policemen che simboleggiano l'Inghilterra. E poi l'argomento, la creatura magra e affamata che cammina su e giù, di strada in strada, dove ogni ingresso gli è precluso perché non ha una casa. Com'è straordinariamente inglese tutto questo. Ricordo che l'uomo riusciva finalmente a trovare un tavolo dove sedersi e lì ordinava una polpetta di pesce. Ma alla sua richiesta di un po' di pane, il cameriere gli rispondeva con disprezzo a voce alta: "Non serviamo il pane con una sola polpetta di pesce." Che volete di più? Quanto sono profonde queste canzoni. C'è dentro tutta la psicologia di un popolo. E quanto sono poco francesi. Quanto poco francesi. Ancora, Dick, ancora una volta, supplicavo, stringendo le mani e facendo boccuccia. E lui era felicissimo di cantarla all'infinito. E anche allora, anche con Dick, fu lui a prendere l'iniziativa. Lo conobbi a una serata organizzata dall'editore di una nuova rivista. Era un evento molto elegante, molto alla moda. C'erano un paio di signori anziani e le signore erano quanto mai come il fo. Sedevano su divani in stile cubista, vestite da gran sera e ci consentivano di passar loro bicchierini di sherry brandy e di intrattenerle sulla loro poesia, perché, da quel che posso ricordare, erano tutte poetesse. Era impossibile non notare Dick, era l'unico inglese presente, e invece di circolare con grazia per la stanza come facevamo tutti noi, se ne stava fermo, appoggiato al muro con le mani in tasca. Quel suo mezzo sorriso trasognato sulle labbra e rispondeva in un ottimo francese con quella sua voce bassa e morbida a chiunque gli rivolgesse la parola. Chi è quello? Un inglese di Londra, uno scrittore. Sta facendo uno studio specialistico sulla letteratura francese moderna. Mi bastò. Il mio piccolo libro Monete false era appena stato pubblicato. Era un giovane scrittore serio che faceva uno studio specialistico sulla letteratura inglese moderna. Ma non ebbi neppure il tempo di lanciare la lenza che già lui, scuotendosi dolcemente, come se stesse uscendo dall'acqua appresso all'esca, mi stava dicendo: «Non vuoi venire a trovarmi al mio hotel? Vieni verso le 5, così potremo parlare un po' prima di uscire a cena». «Oh, con grandissimo piacere!» Fui così profondamente lusingato che lo piantai lì su due piedi per andare a pavoneggiarmi davanti ai divani cubisti. Che colpo! Un inglese riservato, serio, che studiava la letteratura francese. Quella stessa notte una copia di Monete false con una dedica accuratamente cordiale viaggiò per posta e un giorno o due dopo cenammo insieme, passando la serata a parlare. A parlare, ma non solo di letteratura, scoprii con mio grande sollievo che non era necessario intrattenersi solo sulla tendenza del romanzo moderno, sulla necessità di una nuova forma o sul motivo per cui i nostri giovani scrittori sembrassero incapaci di trovarla. Ogni tanto, come per caso, buttavo giù una carta che sembrava non avere niente a che fare con il gioco, solo per vedere come l'avrebbe presa. Ma ogni volta la prendeva tra le mani con lo sguardo sognante e il sorriso fermo. Qualche volta può aver detto: «È molto strano», ma come se non fosse affatto strano. Alla fine quella calma accettazione mi diede la testa, mi affascinò, mi condusse tanto in là che finii per gettare sul tavolo tutte le carte che possedevo e mi sedetti e rimasi a guardarlo mentre se le disponeva tra le mani. Molto strano e molto, molto interessante. A quel punto eravamo entrambi abbastanza ubriachi e lui iniziò a cantare la sua canzone a bassa voce, molto bassa, sull'uomo che camminava avanti e indietro in cerca di un pasto. Ero ancora senza fiato al pensiero di quello che avevo fatto. Avevo mostrato a qualcuno i due aspetti della mia vita. Gli avevo detto tutto nel modo più sincero e vero possibile. Mi ero affannato a spiegargli certe cose della mia vita nascosta, veramente disgustose e che non avrebbero mai, mai potuto comparire nel mondo letterario. Nel complesso ero riuscito a dipingermi molto peggio di quello che ero, più sbruffone, più cinico, più calcolatore. Ed ecco l'uomo con cui mi ero confidato che mi sedeva di fronte, cantava tra sé e sé e sorrideva. Mi commossi così tanto che lacrime vere mi riempirono gli occhi. Le vidi scintillare sulle mie lunghe ciglia di seta bellissime. Dopo di allora portai sempre Dick con me dappertutto. Lui mi veniva a trovare a casa mia, si sdraiava in poltrona con aria indolente e giocherellava con il tagliacarte. Non riesco a capire perché la sua indolenza, la sua aria sognante mi facessero sempre pensare che un tempo avesse dovuto fare il marinaio. Tutti quei suoi modi lenti, pigri, sembravano accordarsi col movimento di una nave. Questa impressione era così precisa che spesso quando stavamo insieme lui si alzava e lasciava lì sul più bello una donnina che in quel momento non si aspettava di vedersi piantare, anzi il contrario, io mi mettevo a spiegare: «Non può farne a meno, bambina, deve tornare alla sua nave». E ci credevo, molto più di lei. Per tutto il tempo che rimanemmo insieme, Dick non andò mai con una donna. A volte mi chiedevo se non fosse addirittura vergine, perché non gliel'ho chiesto? Perché non gli ho mai chiesto niente di sé? Ma una sera, era tardi, tirò fuori di tasca il portafoglio e ne cadde una fotografia. La presi e la guardai prima di restituirgliela. Era di una donna, non giovanissima, bruna, bella, dall'aspetto selvaggio, così segnata in ogni tratto di una certa quattruce fierezza che, anche se non fosse stato così veloce a riprendersela, non l'avrei comunque guardata più a lungo. «Stai lontano da me, piccolo fox terrier profumato di un francese», diceva quella donna. Nei momenti peggiori il mio naso mi ricorda quello di un fox terrier. È mia madre, disse lui riponendo il portafoglio. Ma se non fosse stato Dick, sarei stato tentato di farmi il segno della croce, così, solo per divertimento. Ecco come ci siamo lasciati una notte, mentre stavamo fuori dal suo hotel in attesa che il concierge togliesse il fermo al portone. Lui disse, guardando il cielo: Speriamo che domani faccia bel tempo. Parto di mattina presto per l'Inghilterra. Non dici sul serio? Assolutamente sì. Devo tornare, ho da chiudere un lavoro che qui non riesco a fare. Ma hai fatto tutti i preparativi? Preparativi? Quasi si mise a ridere. Non ho niente da preparare. Ma, enfin, Dick, l'Inghilterra non è mica dall'altra parte del boulevard? Non è molto lontano, rispose. Solo poche ore, lo sai. Il portone si aprì cigolando. Ah, peccato non averlo saputo all'inizio della serata. Mi sentivo offeso, mi sentivo come deve sentirsi una donna quando un uomo, tirando fuori l'orologio, si ricorda di un appuntamento che in nessun caso la riguarda, tranne per il fatto che è più importante di lei. Perché non me l'hai detto? Allungò una mano e si mosse, ondeggiando leggermente sulla soglia, come se l'intero albergo fosse la sua nave. E l'ancora già alzata. Me ne sono dimenticato, davvero. Ma mi scriverai, no? Buonanotte, vecchio mio. Uno di questi giorni tornerò. E così rimasi solo sulla riva, più simile che mai a un piccolo fox terrier. Ma dopo tutto sei stato tu a chiamarmi, tu a chiedermi di venire. Che figura devo aver fatto a scodinzolare e saltarti intorno per tutto il giorno, solo per essere lasciato così mentre la nave si allontana, lenta e trasognata. Questi maledetti inglesi, no, ma è veramente troppo. Per chi mi hai preso? Una piccola guida a pagamento ai piaceri notturni di Parigi? No, monsieur, sono un giovane scrittore molto serio ed estremamente interessato alla letteratura inglese moderna. E sono stato offeso, e offeso gravemente.